Allora, intanto buongiorno a tutti, benvenuti. Io direi che incominciamo con questo incontro, una serie di incontri come abitualmente facciamo in ricordo di Primo Moroni, l'anniversario della cui morte sarà il 31 di marzo. Poiché le iniziative sono rarefatte in questo periodo, iniziamo prima e finiremo dopo, proprio l'intorno stretto del 31 marzo. Secondariamente ricordiamo Sant'Enotar Nicola, l'anniversario della cui morte ricorre il 22 marzo, è stata l'anno scorso. Un gruppo di compagni e amici di Sante hanno fatto dei manifesti che sono appesi là dietro, ne hanno fatti parecchi, e se ci fosse qualche situazione, qualche centro che li vuole prendere per attaccarli all'interno, oppure nella porta, insomma, così si trovano sul tavolo qua fuori, là dietro, quel tavolo lì esattamente dietro qua. Perfetto. Allora, date queste piccole premesse, introduco velocemente la giornata. Avremo, dopo la mia piccolo intervento, ci sarà un collegamento con Circe, che ha scritto il pezzo del capitolo del libro che riguarda la didattica, la pedagogia e la DAD e tutta quella insieme di faccende lì tra il tecnico e il pedagogico, e poi invece Pincetti e Crosignani parleranno dell'aspetto sanitario. Avremo un piccolo intermezzo con Piperno, che ci saluta per telefono, e un piccolo contributo di De Angelis, che è arrivato registrato perché non poteva venire. Va bene, vado veloce. Allora, questo libro qua nasce i primi mesi del 2020. Sostanzialmente i materiali, benché aggiornati nel 2021, risalgono al 2020. Ciononostante abbiamo ritenuto utile e necessario stamparlo, e nonostante appunto quelle lungaggini nella sua preparazione, e metterlo in circolazione, perché è una importante testimonianza di una fase critica di quello che è successo in relazione a tutti gli eventi della pandemia. In maniera molto grossolana, io penso che si possano identificare tre fasi, almeno nel primo periodo, a riguardo della dinamica dello sviluppo dell'evento pandemico. La prima fase è quella che va dal febbraio del 2020 fino a maggio-giugno, e corrisponde alla fase del trauma. Arriva la notizia, c'è grande preoccupazione, enorme paura, non si sa bene che cosa fare, le carte sono completamente scompaginate. L'impressione è che tutti gli attori si muovano annaspando. Chi ha più in qualche modo autorità alle sue spalle annaspa in maniera più robusta, però nessuno riesce a, quelli che sono le coordinate di un sistema abituale, insomma normale, sono tutte distrutte, no? Cancellate. Poi segue una seconda fase in cui invece in qualche modo qualcosa inizia a ricomporsi, i ragionamenti si fanno più da tutte le parti, si fanno più conseguenti, ecco, seguono una logica più precisa, che ci piaccia o che non ci piaccia, e arriviamo in questo, e quindi vengono tutta la parte dei DPCM, delle regole, dei criteri, del si può andare in due con la macchina dai nonni una volta al giorno, cominciano a succedersi tutti questi dispositivi che in qualche modo riempiono le nostre orecchie come una specie di mantra, E arriviamo così fino alla fine del 2020. All'inizio del 2021 invece arriva la cura, cioè cambia completamente il quadro della situazione e la messa a disposizione dei vaccini nei centri vaccinali italiani, ma di tutto il mondo, in qualche modo costituisce dà una risposta precisa al problema. Allora, perché dicevo che la prima fase è particolarmente interessante? Perché nella prima fase proprio il fatto di avere tolto qualsiasi certezza e posto un enorme problema, si sono liberate un sacco di energie e si sono prodotti un sacco di riflessioni. Tutti si sono sentiti tenuti a cercare di riflettere e intervenire su quello che stava accadendo. Quindi c'è stato, per esempio, una serie di sperimentazioni e di tentativi di risposta e di dare delle soluzioni anche autoprodotte, un po' pasticciate, negli strumenti della didattica. C'è stata tutta una questione sulle cure domiciliari, su come si poteva in qualche modo intervenire direttamente oppure in maniera preventiva oppure in maniera di supporto alla malattia. E quindi lo spaesamento ha prodotto energia. È stato, come dire, venuto in maniera molto evidente la consapevolezza, è emersa in maniera evidente la consapevolezza della nocività del posto di lavoro, della nocività dei luoghi carcerari. È il periodo dei grossi scioperi, delle rivolte nelle prigioni, capito? E quindi è un momento in cui le cose, qualche cosa, diciamo, il cozzo è più forte. Con la risposta della cura, non voglio qua entrare in nessuna valutazione su questo dal punto di vista sanitario, non mi interessa, però credo che sia evidente a tutti che gran parte di queste questioni sono scomparse. Cioè, sul tavolo oggi questa roba non c'è più. Nel libro c'è un pezzo di Pincetti, termina con una lunghissima serie di punti che... 44 punti che sono aperti sulla questione sanitaria, che sono rimasti scoperti e che sono in qualche modo emersi nella loro più forte evidenza nei primi mesi del 2020. Di questi 44 punti, secondo me, non se ne è chiuso nessuno, anzi, non sono usciti dall'agenda, anzi, diciamo che la riforma della legge regionale lombarda, che già aveva mostrato, almeno nella sua applicazione, delle grosse crepe, la riforma che è stata fatta adesso è, se possibile, peggiorativa rispetto alla situazione precedente. E quando è stata fatta l'ultima iniziativa sotto il palazzo della regione su questa cosa qua, c'erano 50 persone, tutti noti e tutti così, cioè è scomparso dalla sensibilità, mentre in qualche modo per un pochino c'è stato. Per inciso faccio notare, diciamo, che la potenza di questa successione di fasi trova conforto e un'ulteriore affermazione nel fatto che è lo stesso schema che viene utilizzato nelle formazione del personale militare e nell'applicazione della tortura. Cioè la perdita di conoscenza, di connessione, la perdita dell'identità, la trattativa e l'arruolamento. Queste sono le tre fasi. Noi abbiamo avuto qua alla fine dell'anno scorso un molto bel incontro su questo aspetto, e dove si vedeva che c'era una particolare... un'assoluta sovrapposizione tra l'insegnamento dell'addestramento dei soldati e delle pratiche di tortura. E diciamo che in questo caso la ripartizione di queste tre fasi corrisponde a questo genere di modello qua. Non voglio con questo dire che la cosa è stata costruita d'arte, non mi permetterei, però voglio dire che comunque questo sistema ha un'efficacia provata e studiata e documentata già. Per questa ragione è utile tornare all'inizio e riguardare e cercare di in qualche modo ricostruire quello che è successo e capire che cosa è successo nel momento della decostruzione. Un altro pezzo che è bello del libro è sono proprio la cronaca dei primi giorni, dei primi mesi, no? E anche quello diciamo fa un certo effetto se a distanza di tempo, perché molte cose poi si dimenticano e uno impara la lingua dell'oggi dimenticando i percorsi che l'hanno portato a questa situazione. Ecco, io direi che per questo mi fermerei qua, darei quindi indicazione sia a Circe che a loro di fare un po' seguire questo binario, insomma, cioè di capire da allora ad oggi, senza dover fare la ricostruzione, ma quali sono, come dire, le differenze, i bianchi e i neri che si vedono da una parte o dall'altra. Quindi non so se possiamo passare, adesso dovrei fare così. La vedo. Ecco, Agnese, puoi parlare? Sì, c'è, è molto singhiozzante, capisco il senso. Bene? Ok. Ciao. Ecco. Tu devi staccare tu. Ti sentiamo. Eccomi, scusate, ho messo cuffie. Allora, sento il mio ritorno, quindi magari parlerò un po' strana, quindi mi lavo le cuffie e quindi non vi sento, però posso dirvi che i chiari e scuri, insomma, noi abbiamo fatto un intervento nel libro che ha quasi esclusivamente della didattica a distanza, della formazione a distanza, quindi abbiamo osservato in modo particolare cosa stava succedendo nella scuola, nella formazione tra le persone più giovani, tra gli insegnanti che si sono ritrovati con enormi responsabilità sulle spalle. E non farò ovviamente una cronistoria, anche perché ce l'abbiamo già tutti abbastanza presente quello che è successo, ma quello che mi interessa osservare e notare insieme a voi è che, come immaginavamo a inizio pandemia, quando abbiamo cominciato con le nostre riflessioni, questa grande accelerazione al digitale, non solo appunto nel campo del lavoro, ma anche nel campo della formazione, della scuola, è arrivata per restare. Non è stata un'emergenza, qualcosa che è rimasta dentro l'olla di quel periodo, ma è arrivata per restare, e quindi la tecnologia digitale e la connettività ha acquisito un'importanza, una preminenza molto più grande nella nostra vita quotidiana, molto più di quanto era prima, dove già era comunque molto preminente. Infatti tanti laboratori che noi facevamo prima della pandemia, durante la pandemia, dopo la pandemia, siamo ancora in pandemia in realtà, legati, facciamo delle formazioni in cui a un certo punto, in un esercizio, in un lavoro che si fa insieme, ci si mette in fila da chi usa di più la tecnologia digitale nell'arco della giornata, chi la usa di meno, le ore. E mentre prima, all'inizio, prima della pandemia, le ore, chi usava la tecnologia più a lungo arrivava alle 8 ore giornaliere, ovviamente in pandemia siamo arrivati tranquillamente a 14-15 ore giornaliere come periodo massimo, anche di più poi in realtà in molti casi. Quello che abbiamo notato, e che lo dicevamo già dall'inizio, è che appunto questa accelerazione digitale è arrivata per restare. Ora, questo non è completamente negativo dal nostro punto di vista, perché comunque a noi piace la relazione con la tecnologia, piace lavorare con le macchine, stare in relazione, fare delle cose insieme, anche creare delle possibilità insieme. E tante volte, come oggi, d'altronde, questa accelerazione digitale ci dà mi dà la possibilità di partecipare a questo incontro, perché io comunque non potevo venire a Milano oggi e possiamo dirci sinceramente che magari non ci sarebbe in mente di fare questa cosa nel 2018. Nel 2019, no? Dice, ok, non puoi venire, vabbè, boh, forse facciamo una telefonata, ma magari risolviamo in altro modo, facciamo altro. Quindi, non so, in questo caso specifico di oggi, però in tanti casi, magari anche più di lavoro, che ti dicono, ah, devi partecipare a questa riunione, ok, magari non mi devo spostare, non sempre è necessario, tante volte è bello, ma non sempre è necessario. E è diventato invece più uso come adesso quello di fare delle cose, degli incontri online. Quindi, secondo noi, questa cosa approcciata con il giusto, diciamo, con la giusta distanza, con la giusta attenzione, è anche ok, va super bene. Ovviamente rimane il problema di quali strumenti usi e che strumenti scegli come tuoi compagni. Purtroppo abbiamo assistito in questa accelerazione digitale che abbiamo avuto con la pandemia a un colpo di spugna su tutte quelle che erano le riflessioni su GDPR, privacy e compagnia bella, perché come sappiamo le scuole, le università hanno continuato a cavalcare i servizi oltreoceano di Microsoft, di Google, eccetera, e via così. Quindi, purtroppo, sotto questo punto di vista, anche nonostante il tanto lavoro che noi abbiamo fatto nel nostro piccolo, nelle nostre formazioni per stimolare a un incontro con tecnologie diverse, macchine diverse, è rimasto sempre il grande ostacolo della resistenza delle persone che una volta che hanno dovuto imparare ad andare su Zoom, vogliono andare su Zoom e basta. Quindi Zoom per dirne una, ecco, Zoom tutta la vita. Quindi questo, se da una parte, quindi questa accelerazione poteva anche portare qualcosa di utile, nel senso che maggiore dimestichezza per più persone con tante strumentazioni, d'altra parte, come al solito, abbiamo assistito a questo livellamento sugli strumenti commerciali, sulle mega macchine, sugli ingranaggi delle mega macchine. Un'altra cosa che volevo dire prima di lasciarvi di nuovo la parola, perché non vorrei parlare troppo, è che un'altra cosa che è successa è che ci sia un po' nell'ambito della formazione, della scuola e dell'università, ci sembra che ci si sia un po' abituati all'idea che, ok, non posso partecipare a quella lezione, non posso andare a quella lezione, non posso seguirla online, vabbè, tanto c'è la registrazione. Cioè si è entrati in una fase in cui vabbè, tanto c'è comunque la registrazione. Quindi tutto quello che nell'apprendimento, nelle formazioni, nell'educazione è il rapporto, che sia mediato dalla tecnologia o che sia in presenza, comunque la relazione, è quasi tutta diventata sincrona, è sempre più diffusa questa tendenza a relazionarsi con gli altri, soprattutto in caso di lezioni, in maniera sincrona. Una volta stavamo durante la pandemia proprio al Policlinico, anzi al Policlinico, al Politecnico, per fortuna non ci siamo stati, al Politecnico di Milano, e mentre facevamo questa lezione assurda con Microsoft Webex, con studenti in Cina, studentesse in presenza, non si capiva niente, insomma, nei vari accrocchi, abbiamo avuto questa illuminazione in cui ci siamo resi conto che il grande sogno di questa accelerazione digitale è quella di gettare un colpo di spugna sulla presenza, sulla figura proprio dell'insegnante, del professore, della professoressa. Cioè, a un certo punto direttamente degli insegnanti sintetici. Infatti avevamo scritto un raccontino inedito che ma gli ingegneri sognano le pecore elettriche, cioè questi ingegneri che hanno sviluppato Cisco Webex, probabilmente sulla lunga durata si immaginano anche non solo le lezioni non in presenza, ma addirittura non con esseri umani, ecco. E quindi da qui può scaturire tutta una riflessione su che cos'è la formazione, che tipo di pedagogia, e alcuni di questi temi li affrontiamo nel contributo che sta dentro il libro che stiamo presentando. Quindi adesso vi lascio di nuovo la parola, ci sarebbe ancora molto da dire, però insomma, magari sentiamo, facciamo un dialogo. Voi siete diversi, voi collegati in questo momento. Può darsi che se qualcuno di voi vuole intervenire, lo faccia e lo dica, insomma, lo può dire qua questa cosa della presenza, peraltro, la ritroveremo anche nella parte medicale, perché per esempio il PNRR prevede uno stanziamento di fondi non tanto grosso per quanto forse aspettavo ci sarebbe dovuto essere per la sanità, e di questo una bella fetta riguarda la telemedicina, e che quindi anche lì la prossimità, diciamo, il punto d'equilibrio finale è simile, ecco, da questo punto di vista. Non so se Circe ha il gruppo di Circe, perché siete diversi, vogliono aggiungere delle cose, facciamolo adesso. Beh, direi. Ecco, scusate che abbiamo premuto shift e control e mi scappano le dita. No, beh, allora stavamo dicendo, da una parte, quindi questa cosa della sparizione alla fine proprio anche della presenza, anche cioè, l'insegnante diventa obsoleto in qualche modo. E l'altra cosa che notavamo ovviamente è anche la grande fatica. La fatica che tutti quanti, tutte quante abbiamo nel partecipare a qualunque evento, qualunque cosa che sia, che avvenga su queste piattaforme, perché più delle volte appunto le piattaforme sono quelle delle, come dicevo prima, degli ingranaggi delle megamacchine. Allora, spesso anche durante la pandemia, anzi soprattutto insomma durante la pandemia, è stato divertente notare che abbiamo sostenuto dei laboratori, abbiamo fatto dei laboratori con degli studenti e delle studentesse universitarie. E questi laboratori li chiamavamo del gioco del demone. Il gioco del demone consisteva nell'andare a evocare il demone dell'interfaccia. Nello specifico, il demone dell'interfaccia era lo strumento di videoconferenza utilizzato quotidianamente da quell'università piuttosto di quell'altra scuola. E quello di cui ci siamo accorti, considerate che parliamo di laboratori fatti dopo un anno e mezzo, un anno di pandemia, cioè dopo che già era stato utilizzato molto la piattaforma. E quello di cui ci siamo accorti è che nel corso di questi laboratori le persone si entusiasmano. Cioè, nonostante la fatica di stare di nuovo collegato a quel Cisco Bex, a quel Microsoft Teams, quello che è, giocare a tematizzare la presenza di quella piattaforma come un agente nel processo educativo e quindi interagirci non facendo finta che non esista, ma prendendola proprio come elemento con cui io sono in relazione, aggiungendo a questa piattaforma i nostri strumenti, quelli che amiamo di più, quelli che sono i nostri compagni di gioco, come ad esempio l'Etherpad oppure il cloud su Nextcloud, aggiungendo questi elementi, le persone in qualche modo si liberavano. Cioè, i feedback alla fine erano: che bello stare tutti insieme. Che bello finalmente poterci confrontare, stare anche soltanto stare insieme sul pad a scrivere mentre mandavamo una musica appiccicando il microfono sullo speaker, quindi i soliti accrocchi un po' così inventati. E dopo la fatica che è sostenuta da questi studenti, da queste studentesse per mesi e mesi sulle piattaforme, tematizzare la piattaforma era un elemento liberatorio. E da questo se ne deduce, secondo me, abbastanza chiaramente come sia importante e come e noi infatti continuiamo a spingere tutt'oggi su questo, scegliere con attenzione gli strumenti che si decidono di utilizzare, appunto perché sono, diventano degli attori, se parliamo di scuola e di educazione, sono degli attori del processo educativo. D'altronde, come dicevo prima, se la prospettiva è quella di arrivare addirittura all'assenza dell'insegnante, della persona, della formatrice o del formatore, insomma, il fatto che anche lo strumento sia tematizzato è perché comunque la direzione è sempre di più quella di andare verso il minor sforzo, dove addirittura tu diventi il dispositivo. E un po' anche il sogno di Meta, no? Il sogno di Zuckerberg quando si immagina questa dispiace cyberpunk, infatti non gli è venuto in mente di chiamarla metaverso, forse non si è letto bene Snow Crash, però la prospettiva ci sembra quella di far scomparire completamente l'attrito con lo strumento, col dispositivo, perché tu possa diventare lo strumento, il dispositivo, e in quella direzione un po' ci siamo. L'altra cosa, l'ultima, insomma, che butto lì sul piatto della discussione, è quella che siamo ancora molto lontani dal costruire nelle scuole dei server indipendenti che possano gestire e sostenere le necessità del tiere, della scuola, degli insegnanti, che nonostante l'accelerazione digitale sarebbe proprio la direzione interessante da prendere, perché avendo i propri server su cui installare gli strumenti di videoconferenza, didattica a distanza, eccetera, consentirebbe di tematizzare ulteriormente lo strumento, la macchina e alfabetizzare veramente le persone che ci interagiscono e quindi intraprendere un processo di liberazione e di scelta consapevole rispetto all'utilizzo dei dispositivi. Ovviamente questo ci sembra che non stia succedendo, però noi comunque, cioè, in via ostinata e contraria, continuiamo a spingere. Ecco, insomma, mi fermo di nuovo, poi probabilmente tra poco ci raggiunge anche Carlessi che sta avendo dei problemi di connessione, ma ci sarà anche lui. Sì, K è collegato ma non è nella stanza. Noi andiamo avanti e noto che anche noi stessi non stiamo usando delle piattaforme mainstream e un pochino di cose forse vanno affinate anche su questo. Diciamo che anche in questo stesso momento stiamo sperimentando le cose che tu dici. Vedremo in questa dinamica se ha un senso la periodizzazione che io ho fatto dello shock, la trattativa, l'arruolamento, quanti di questo arruolamento finale, che nel caso scolastico vuole dire le piattaforme Microsoft e Google, eccetera, che si sono imposte nella didattica delle scuole, quanti saranno disposti a disertare questi campi per scegliere dei terreni più impervi ma senz'altro stimolanti. Andrei adesso Posso avanti. dire una cosa sugli strumenti? Scusa, No, gli certo. strumenti che stiamo usando in questo momento, che resti a memoria, sono abbastanza liberi, liberanti, libertini e radicali. In particolare sono su piattaforma Unix Linux, Icecast per la diretta dello stream radio e Mumble, che è una piattaforma di audio conference, per invece ricevere contributi da fuori. Ecco, vediamo se riesco. Abbiamo adesso un Massimo contributo De registrato Angelis, vi o... voglio mandare un breve saluto e un augurio e i miei complimenti per questo bel numero di loco che ho ricevuto in questi giorni e spero di leggere nei prossimi. Mi piacerebbe essere lì con voi, purtroppo non sono lì. Alla Calusca ci andavo quando ero ragazzo, negli anni 70 e nei primi anni 80. Mi ricordo prima un piccolo negozio stipato di libri, poi un altro, uno più grande, ma ancora più stipato, entrambi nella zona ticinese. In entrambi i casi, questo strano personaggio con il pizzetto se ne stava spesso seduto dietro a un tavolino leggendo qualcosa o consigliando letture. Primo Moroni era il master chef della conoscenza collettiva alternativa rivoluzionaria di quegli anni a Milano, colui che mischiava gli ingredienti, gli approcci, gli orizzonti di tutti i tipi, dai libri sulla filosofia presocratica, e ne dovrei avere ancora un libro di quel tipo lì da qualche parte. Mi ricordo che mi costò un occhio per le mie povere tasche di allora. E c'era quindi dai libri di filosofia ai bollettini di collettivi politici mai sentiti prima o di quartiere. La Testata è per me uno dei luoghi dove ho imparato a riconoscere le collane dei libri, meravigliarmi della varietà degli argomenti. E ho percepito crescere forte in me il desiderio di leggere, di apprendere e di capire come si cambia il mondo, proprio mentre là fuori il mondo sembra impazzito e i tamburi della rivolta e della repressione pervadevano le molteplici stanze della vita. Spero un giorno di venire a trovare nella Calusca di oggi. Nel mio articolo pubblicato su questo numero di Loco e originariamente pubblicato su Comune nel mezzo della prima ondata della mia, parlavo di tre possibili traiettorie generali per il futuro. Essenzialmente un primo scenario dove sarebbe tornata la normalità neoliberale, il ritorno alle solite routine alienate, inquinate, stressate, marginalizzate di sovra o sottoconsumo e di arricchimento per pochi e precarietà per molti. Un secondo scenario dove, a fronte di resistenze plurali sul tema della sanità, del welfare e dell'ecologia, si profilasse un nuovo patto sociale fondato attorno a un Green Deal, ma portato avanti con una modalità tecnicista e che si fonda sulla grande illusione della possibile coabitazione, crescita e profitto capitalista da una parte ed ecologia e welfare dall'altra, e che vedrà poi sempre adottare politiche sempre più di controllo e sorveglianza sociale. E poi c'era il terzo scenario, la costituzione e l'espansione del comune, cioè di una forma di cooperazione sociale altra, in un orizzonte dove la priorità è la vita nella sua articolazione complessa. E quindi la priorità sono forme di cooperazione sociale centrate sulla dignità, il mutuo riconoscimento, l'autogoverno, il rispetto per i limiti ecologici. Oggi possiamo aggiungere un altro scenario dopo 2 anni. E ci siamo già dentro quest'altro scenario, quello della guerra. Questa guerra, i suoi sviluppi imprevedibili e potenzialmente catastrofici, però anche le sue articolazioni con i movimenti tettonici della geopolitica, cioè della configurazione del comando del mondo nel suo complesso. Beh, questa guerra fa da cornice ai tre scenari menzionati prima, rendendoli forse ancora più impervi. Ma il fatto è che la guerra è anche il definitivo segnale che qualcosa si muove e che la storia proietta la sua ombra nella percezione delle cose. E tra le cose che si muovono c'è anche crescente, nascente, crescente, c'è anche il movimento per fermare la guerra. Cioè un movimento che, se esplodesse veramente con i suoi altri valori e altre ragioni, può dare energia al terzo scenario, a quello che prefigura l'ascesa del comune. E come sempre, quindi anche oggi, come si sa, non ci rimane che entrare dentro la storia. Un caro saluto. Questo di entrare dentro la storia era la fine della, del suo pezzo che ci aveva mandato. Avevamo fatto una trasmissione apposta sul suo contributo e anche lì con un tentativo di interazione con l'esterno che è andato poi abbastanza non bene. Per quanto lui cita la questione della guerra, e devo dire che benché con dei tempi molto più stretti il meccanismo sembra riprodursi simile, eh? Cioè abbiamo un fenomeno di arruolamento in corso che riproduce quella schematizzazione, quella successione di passaggi. Vabbè, allora Franco ha chiesto 5 minuti, quindi non so se Dan vuole dire due cose sul pezzo suo, sulla, l'ho sentito adesso, 5 minuti e poi lo chiamo. E poi dopo finiamo questa parte più complicata dal punto di vista tecnico. Beh, e torniamo sul tavolo qua. Ok, io ho scritto, un partecipante di Lost e di Loco 19, ho scritto un pezzo in forma un po' diaristica e ho cercato di raccontare, partendo da un'esperienza personale, come funziona la vita negli stati di emergenza, in quanto mi è capitato di vivere uno stato di emergenza che era quello del 2001 nella città di New York, e alcune meccaniche si sono riprodotte in maniera abbastanza puntuale, come ovviamente l'immediata adesione alla narrazione prevalente. Ma tutto qua. E dunque imparai allora, per esempio, che gli stati di emergenza non si revocano ma si prorogano di solito, e più o meno per il motivo perché durante uno stato di emergenza vengono promulgate leggi o vengono stanziati fondi, vengono implementate strutture organizzative, e che poi se cessasse lo stato di emergenza rischierebbero di cadere a loro volta. La situazione in questo momento è abbastanza singolare, in quanto lo stato di emergenza, per esempio per quello che riguardava il pandemonio, scadrà il 31 di marzo, come sapevamo già da un annetto più o meno, ma è stato recentemente confermato, ma si è aggiunta un'altra emergenza, come certamente siete a conoscenza. E dunque stiamo per tentare, questa volta utilizzando un telefono, un collegamento con Franco Piperno. Capitale, lo Stato, le mucche e noi. A che punto siamo adesso di questa situazione qua? Che cosa? Le mucche soprattutto, sì. Quindi io ti passo la parola, mi devo staccare il microfono e poi quando finisci stacco il jack e ti riparlo e ti saluto. È solo un saluto che volevamo farti e che se tu volevi fare qua ai presenti, va bene? Ti passo, grazie. Buonasera a tutti. Io, ecco, ho un po' lavorato su questo concetto dell'individuo sociale, concetto che in realtà si trova già in Marx e che è stato in parte utilizzato dai francofortesi per poi divenire, sotto la penna dei Toninelli, operaio sociale. Ma l'iter originario del concetto è legato a questa affermazione di Marx, che appunto ritiene che sia come un destino dell'umanità quello di avere degli individui, dice realmente lui, dalla coscienza enorme, una coscienza all'altezza della specie. Allora, ovviamente, un programma di questo tipo è più che universale, direi di tipo pontificale, quindi io non mi addentro in questa cosa, solo l'affermazione di Marx mi ha stimolato a confrontare alcune cose che sono tipiche della nostra specie. cosa peraltro dai nostri padri elettivi, che più di una volta si sono addentrati ad esaminare questi concetti. Quindi, per farla breve, parlo di quello che può essere considerato, facendo i debiti scongiuri, un concetto centrale della condizione umana, che è la morte. Ora, la morte può sembrare un aumento del disordine e quindi essere legata a tutti quei fenomeni che i fisici chiamano entropici e che distruggono continuamente l'ordine. Noi anche nelle nostre case o sul nostro tavolo di lavoro ne sappiamo qualcosa. Quindi la morte potrebbe essere nient'altro che la manifestazione di questo destino per cui l'entropia, così chiamano i fisici il disordine, aumenta e non diminuisce mai. Ora, invece, c'è una tradizione che in parte, sia pure in maniera assai indiretta, è legata a Bogdanov, ma anche agli anarchici dell'Ottocento, in cui la morte non è dovuta all'aumento dell'entropia, ma piuttosto al principio di evoluzione. Qual è la differenza fra le due cose? In realtà, dal punto di vista di come è fatto il nostro universo, un individuo potrebbe continuare a vivere e non morire mai. Anzi, c'è da chiedersi in milioni di anni di storia se la morte fosse una cosa negativa, come mai la natura non ha trovato la maniera di correggerla. Allora può darsi che la morte non sia così negativa, o meglio, la morte è negativa per l'individuo, ma invece è salvifica per la specie. Detto altrimenti, se tutti gli individui continuassero ad accoppiarsi o anche semplicemente a sopravvivere, non ci sarebbe posto per nuove combinazioni genetiche. Quindi la natura ha interesse, una volta che l'individuo si è riprodotto, che lasci spazio per un individuo con, come dire, un suo ordine genetico che è diverso da quello dei suoi genitori, perché questo garantisce la possibilità di adattamento. Ora mi sembra di avervi afflitto abbastanza. Volevo solo darvi l'idea che questa storia della biopolitica dovrebbe essere con una certa umiltà associata a uno studio della biologia, mentre invece la tradizionale separazione delle discipline fa sì che i compagni che parlano della biopolitica e i compagni che parlano della biologia non si ascoltano mai l'uno con l'altro. Mi arresto qua per evitare di polemizzare con i miei colleghi. E vi auguro un buon dibattito. Lui scrive nel pezzo suo: ecco allora che il virus, produttore non annunciato di un fatto sociale totale, svolge la sua opera buona rimettendo in discussione la legittimità delle diseguaglianze che strutturano la divisione del lavoro o la previdenza sociale o i servizi pubblici, perché a ben vedere un ospedale non è un'azienda. Così, per un momento almeno, la crisi squarcia l'illusione economista secondo il quale il lavoro umano non è altro che una merce, sia pure particolare, e il suo valore è stabilito in ultima analisi dal mercato. Per un momento almeno. Ed eccoci qua, torniamo sul tavolo e finiamo la parte più di sperimentazione. Non so se voi. Un'altra nota piccolissima tecnica, causa gli eventi noti, è dal febbraio 2020 che qua non si fanno più iniziative all'interno. Infatti, vedete, c'è questa costruzione qua, c'è il tendone. Se fa un po' freddo, c'è una scatola con delle coperte che vedo che qualcuno ha già utilizzato. Abbiamo cercato così di sopperire alle difficoltà della climatica, ecco, del mondo della natura. Basta, a voi, proprio davvero. Prendo da qua. Cosa? No, no, no, no. No, no, No, grazie. no, va bene, va bene. Quanto abbiamo affrontato nelle precedenti trasmissioni radiofoniche del 2020, che poi si è concretizzato in questo libro, era tutto riferito alla prima parte della pandemia. Tant'è che, per quanto mi riguarda, quello che è stato scritto. È stato scritto fino al maggio del 2020 e poi c'è stata una ripresa a ottobre in cui c'è stato un post-scriptum di fatto a ottobre in cui si andava a verificare che cosa fosse successo da quel momento. Per cui quello che troviamo nel libro è applicabile a una prima parte della pandemia. Non possiamo andarlo a riprendere in una fase successiva. Vi faccio un esempio. Se si parla di tracciabilità rispetto a un virus, se ne può parlare in una prima parte, fin tanto che la numerosità dei contagi è tale da consentire una tracciabilità effettiva. È quello che sta ancora succedendo in Cina, è quello che sta ancora succedendo in Corea. Sta ancora succedendo in questi posti, anche in Thailandia, credo. Sta ancora succedendo proprio perché ad ogni riesplosione si aggredisce immediatamente il problema tentando di delimitarlo. Per cui anche i distanziamenti, i blocchi intorno agli isolamenti di quartieri o di intere città che loro hanno fatto sono stati molto utili perché sono avvenuti in una prima fase. In questo momento noi non possiamo più parlare di una condizione di questo genere, non possiamo più andare a ricorrere a delle modalità di questo tipo, tranne che in piccole realtà in cui si dovesse sviluppare un nuovo focolaio. Allora lì è possibile ripeterle, ma se no, altrimenti non so se è possibile ripeterle, però dal punto di vista pratico, perché di fatto non sono mai state effettuate in modo efficace. Sono stati effettuati in modo efficace alcuni isolamenti di territorio, quelli sì, li abbiamo visti qua vicino a Milano, li abbiamo visti a Vo' Euganeo, li abbiamo visti a Medicina, per cui questi sono stati effettuati. Ma poi i tracciamenti successivi, cioè al di fuori di questi contesti, non sono stati più effettuati. A Milano è stato tentato un tracciamento in modo abbastanza, diciamo, evoluto, ma disponevano di pochissime persone per poterlo attuare e di fatto già alla decima giornata è saltato perché ci sarebbe occorso un investimento importante e un reclutamento importante di tracciatori perché senza un call center di migliaia di persone è impossibile immaginarsi un tracciamento. Questo non è avvenuto. Per quanto riguarda le vaccinazioni, si faceva un riferimento sempre in quelle trasmissioni e poi in questo articolo, si faceva un riferimento al fatto che il vaccino sarebbe stato importante, ma sarebbe stato ben difficile avere un vaccino che soddisfacesse le attese relativamente alle regole scientifiche con cui si mette in atto una vaccinazione, Questo è stato in parte ovviato saltando alcune fasi di sperimentazione, cioè di fatto attuando sperimentazione diretta sulla distribuzione di massa. È una prova provata e pubblicata abbondantemente che dove ci sono state aree di grosso sviluppo di campagne di vaccinazione c'è stato un rallentamento della diffusione e una riduzione importante della mortalità. Altrettante pubblicazioni sono sulla differenza fra mortalità fra soggetti vaccinati e soggetti non vaccinati. Sono parecchie pubblicazioni assolutamente rigorose che fanno vedere come nell'ambito della vaccinazione si sia ottenuto una riduzione di mortalità e una riduzione di contagio. Quello che abbiamo a che fare in questo momento relativamente alle vaccinazioni e al contagio è lo sviluppo delle varianti. Lo sviluppo delle varianti era prevedibile fin dall'inizio perché il virus appena identificato è stato valutato come un virus non stabile. Non sempre si intraprende la via vaccinale su virus non stabili, proprio perché la loro non stabilità non consente l'adeguamento del modello di vaccino per limitare i danni. Lo si fa già nelle vaccinazioni influenzali, anti-influenzali, che periodicamente cambiano, ma non cambiano con questa velocità e consentono un adeguamento annuale dei vaccini. Non sempre per il nostro territorio, dove frequentemente venivano forniti vaccini che erano sul modello dell'anno precedente. Di più in altri paesi dove gli istituti di ricerca pubblici avevano la possibilità di ottenere dei vaccini assolutamente adeguati per ogni anno. Adesso anche in Italia. Le varianti stanno generando però una problematica che non si sa bene come essere affrontata, nel senso che se si immagina un superamento del contagio, un superamento totale del contagio, non si sa come avvenga, perché l'unica via possibile è quella di convivere con una situazione di varianti che siano fin dall'inizio identificate dal punto di vista della loro efficacia di diffusione e anche dal punto di vista del danno che procurano. Diversamente non sembra che ci siano in questo momento delle soluzioni altre. Si sa che negli Stati Uniti in questo momento il 30% della variante Omicron 2 ricopre tutti i contagi e il 30% è molto, per cui si pensa che in breve diventi dominante anche questa variante e che i vaccini rispondano poco, cioè coprano poco per questa variante. D'altra parte tutta questa rappresentazione era già raffigurata, era già prefigurata da studi che erano fatti nel 2020. Il lavoro che riguarda invece le cure, non le vaccinazioni, ma le cure per la patologia, è proseguito in modo molto più ridimensionato, cioè dal punto di vista degli investimenti sono stati investiti molto meno denari per quanto riguarda la cura. Però due produttori sono arrivati a proporre una cura. Un produttore, che è la Pfizer, che ha una copertura, sembra, intorno al 65%, e un produttore, che è la Merck, che ha un prodotto che ha una copertura molto inferiore. Entrambe queste soluzioni sono molto costose e... il fatto che siano molto costose è relativo al mercato, perché di fatto la copertura dei costi di ricerca comporterebbe un costo molto inferiore per ciascuno di questi farmaci, però di fatto il mercato è quello che è, per cui non ci si prospetta di ottenere grandi benefici rispetto alle richieste dei produttori. E in ogni caso sono prodotti che vanno somministrati all'inizio del contagio, all'inizio della patologia. Somministrarli all'inizio della patologia significa una diffusione di questi prodotti tale per cui il loro costo non è detto che sia sostenibile. E in più significa, e qui vengo al problema nostro, significa che il territorio deve diventare artefice dell'utilizzo di queste terapie. È cambiato qualcosa sul rapporto fra territorio e ospedale rispetto al 2020? Da parte di moltissimi è stato detto che uno dei problemi era il territorio, non solamente nella nostra pubblicazione o nelle nostre trasmissioni radiofoniche. Si diceva che uno dei problemi importanti è il fatto che progressivamente si sia rinunciato a coprire il territorio, che vorrebbe dire occuparsi di prevenzione, occuparsi di stili di vita, occuparsi un'attività interconnessa fra gli operatori sanitari che ricoprono il territorio e quelli che ricoprono le realtà ospedaliere. Però di fatto non ci sono state né legiferazioni né dei meccanismi di tipo operativo che abbiano condotto a modificare l'assetto sanitario che ha trovato, l'impreparazione che ha trovato nel 2020. Perciò anche dal punto di vista della cura vedremo come verrà intrapresa, vedremo quali saranno le soluzioni che verranno proposte, però qualche difficoltà sicuramente c'è, e altrettanto sicuramente la lentezza con cui le agenzie internazionali danno le approvazioni su queste metodiche di cura fanno capire che ci troviamo di fronte a soluzioni che comunque devono essere ancora molto valutate per essere confermate, anche se uno di questi ha già ricevuto un'approvazione completa per essere diffuso. Io non andrei oltre, non come già ho avuto modo di dire in passato, non cercavo di trovare i colpevoli di una situazione che si è evoluta in un modo che non è stato ritenuto quasi da nessuno favorevole. Non era questo l'obiettivo. L'obiettivo era di vedere come la struttura operativa in cui noi ci trovavamo non consentisse di fare altro al di fuori di quello che è stato fatto. Cioè era una realtà impreparata, ma è ancora una realtà impreparata. Agiamo molto per l'emergenza, agiamo pochissimo per la prevenzione e per la costruzione di sistemi che modifichino la relazione di salute fra cittadini e operatori che si occupano della salute. Per cui non avrei altro da aggiungere sull'argomento. Passo la parola a Crosignano. Va bene. Allora, io ho molto apprezzato il testo del compagno che ha parlato, perché è molto chiaro dall'esposizione nel libro quali siano le cause che hanno portato alla non completa realizzazione di quella che era la riforma sanitaria, che era nata sulla spinta delle lotte operaie, proletarie e comunque sulla spinta di quel grosso movimento di cambiamento che 68, 77, gli anni intorno avevano portato qui da noi. Dall'altra parte risulta molto chiaro quali sono le conseguenze che liberalizzazione una mancata programmazione e un mettere nelle mani del mercato e dei privati la sanità ha portato, a partire per esempio dalla regionalizzazione, dalle scelte sciagurate che in questa regione hanno preso da Formigoni in poi. Posso dire che si possono vedere, si è visto quello che è stato l'affrontare la pandemia, non solo per quanto concerne la pandemia, ma anche per tutto ciò che sta di fianco, perché le altre patologie che sono state lasciate a sé nel momento in cui ci si concentrava a curare i Covid sono state anche causa di mortalità, causa di aggravamento della malattia per una situazione di abbandono. Quando noi tutti gli internisti siamo dovuti diventare medici nei reparti Covid, abbiamo abbandonato i pazienti cronici ambulatoriali, abbiamo praticamente lasciato a sé una serie di patologie e le conseguenze le stiamo pagando ancora adesso. Io posso dire che non ho visto nessun cambiamento, questo parto dal discorso che proponeva di fare Tommaso prima e dopo, non ho visto nessun cambiamento in positivo, ma solo un ulteriore peggioramento della situazione, sia per quanto riguarda la medicina territoriale, sia per quanto riguarda l'accesso alle strutture di emergenza urgenza, i pronto soccorsi, sia per quanto riguarda l'accesso alla medicina ospedaliera specialistica. E ultimo punto, che per cui ho una visuale particolare, è quello dell'assistenza agli ultimi, lavorando io nell'ambulatorio medico popolare di Via dei Transiti, dove ci occupiamo anche di dare assistenza a chi teoricamente non avrebbe diritto ad averne. Partiamo da quella che è la medicina territoriale. La medicina territoriale è allo sfascio, ma è stato un percorso di sfasciamento che è andato avanti negli anni. Tutte quelle strutture che non erano deputate a far soldi, le strutture per la cura delle malattie a trasmissione sessuale, i CPS, i consultori, l'Uompia, assolutamente, i NOA, tutto ciò che non aveva un immediato ritorno economico è stato svuotato. È rimasta solo una figura di medico che con delle visite ogni 20 minuti, quando prima c'era una situazione, per esempio nei CPS esisteva oltre allo psichiatra, la figura dello psicologo, dell'assistente sociale per un aiuto anche nelle attività. Questo nel corso degli anni è andato perso e attualmente tutte queste strutture sono dei visitifici, addirittura in alcuni consultori esiste la figura del ginecologo a gettone che viene per fare tot visite, che non è neanche una il medico di medicina generale, una figura che non è mai stata definita, perché non è un dipendente, non è un libero professionista, è un libero professionista però che ha un accordo con il sistema sanitario, per cui viene pagato a seconda del numero degli assistiti. Un ventre molle in cui è stato facilissimo inserire tutta una serie tutto quello che è stato l'ingresso del privato nell'assistenza territoriale. Basti pensare a tutta una situazione di favori assistenziali all'interno dei contratti, per esempio di assicurazioni private, di pensioni integrative, di assistenza integrativa, per cui i sindacati rinunciavano a parte di reddito per dare a strutture private la possibilità di avere qualche integrazione. Il fatto che sia mancata un vero servizio di medicina generale ha fatto sì che non fosse possibile, come giustamente segnalava lui nel suo capitolo, fare un controllo di quelle che erano le prestazioni, fare un disegno, una programmazione dei bisogni della popolazione all'interno di un certo ambito, evitando per esempio overdiagnosi e degli overtreatment, cioè di prestazioni che portavano a diagnosi inutili o a trattamenti inutili. Per questo motivo penso che comunque questa cosa qua sia il riflesso di una cosa sostanzialmente, del fatto che a un certo punto ha avuto la predominanza il fatto che la sanità non sia stata concepita più come un modo per garantire un bisogno fondamentale delle persone, ma piuttosto come un modo per creare profitto da una parte e per occupare posizioni di rilievo. Faccio un altro esempio. L'accesso alla specialistica ospedaliera, cosa hanno portato le lunghe liste d'attesa e i ticket così alti da arrivare quasi a essere di poco inferiori ad un privato calmierato la prestazione totale? Hanno fatto sì che tutta una serie di servizi chiudessero, tutta una serie di LEA che dovrebbero essere garantiti, difatti non lo sono più. Quanti si fanno ancora operare la cataratta col sistema sanitario nazionale? Quanti? 2 anni d'attesa sono le ultime cose. Quindi, infine ancora 2 punti che volevo segnalare. Ci hanno fatto credere che a un certo punto l'emergenza urgenza fosse legata al fatto l'intasamento dell'emergenza urgenza fosse legata solo alla pandemia. In realtà è cambiato totalmente, perché da quando hanno modificato la destinazione di uso di una serie di reparti, passando da no Covid a Covid e poi da Covid a no Covid, in questa cosa i letti in medicina si sono ridotti e le persone che arrivano in pronto soccorso hanno un'attesa anche di 2, 3, 4, 5 giorni prima di trovare un posto in un reparto. Quando io facevo il pronto soccorso una decina d'anni fa, arrivavo la sera, anche quando avevo 20 consegne dal collega del pomeriggio, alle 4, alle 5 di mattina avevo dei pazienti che erano stati dimessi, dei pazienti che erano stati ricoverati e dei pazienti che osservavo in area di osservazione. Adesso ci si passa 20-30 consegne per ogni internista, e sono 2, di giorno in giorno i pazienti stagnano in pronto soccorso perché i letti sono insufficienti. Infine, la cosa ancora più ridicola, che occupandomi di assistenza agli ultimi ho visto uno Stato che mentre obbligava persone che non avevano voglia all'obbligo vaccinale metteva tutti i bastoni tra le ruote a chi non aveva una residenza e quindi non aveva un medico di base, a chi non aveva un permesso sanitario per fare la vaccinazione. Noi in ambulatorio e nell'extrambu dell'ospedale San Paolo, un ambulatorio aperto per chi non ha, per chi non ha il permesso di soggiorno, chi non ha i documenti in regola, abbiamo dovuto superare le montagne russe. Alla fine ce l'abbiamo fatta, ma era una corsa ostacoli. Chi voleva vaccinarsi ha dovuto superare numerosi ostacoli per fare il vaccino e poi per avere il Green Pass. Ecco, questo solo per dire l'assurdità di una... E l'altra cosa, con la chicca finale, noi abbiamo avuto da poco più di... da una decina d'anni, un po' meno di una decina d'anni, una terapia farmacologica meravigliosa per eliminare il virus dell'epatite C. Ora, per chi non è in regola col permesso di soggiorno questa e non ha una malattia di fegato avanzata, questa cosa è preclusa. Stiamo lottando per cercare di avere accesso a questi farmaci che libererebbero da una patologia, l'epatite C, che porta alla cirrosi, all'epatocarcinoma e alla morte, oltre al fatto che può portare anche a infettare altre persone. Questo per dire che eravamo partiti male, non riuscendo a dare applicazione chiara a una riforma sanitaria che partiva comunque dalle istanze, dalle lotte, soprattutto dall'universalità, che era la cosa più importante della cura e dell'accesso alle cure. Le cose si sono peggiorate negli anni, come ambulatorio popolare già dalla fine degli anni 90 avevano lanciato l'allarme su quelle che sarebbero stati le conseguenze della riforma formigoniana. E stiamo vedendo delle cose ancora peggiori di quelle che ci saremmo aspettate. In questo momento non esiste nessuna pianificazione. Le persone occupano dei posti anche all'interno degli ospedali senza che sia pianificato il numero che serve per fare delle cose. Vi faccio un esempio molto personale. Domani mi troverò a gestire un reparto con 14 letti e un ambulatorio che sarò l'unico medico disponibile. Questo è quello che è fuori, quello che è e che purtroppo rischiamo anche il posto di lavoro se lo andiamo a denunciare in giro, perché teoricamente per fare certe denunce bisognerebbe avere l'autorizzazione della propria direzione. Una parola, un po' di conforto puoi dire su questi altri ambulatori che ci sono in giro a Milano? Qualcuno ne è nato da poco, insomma c'è qualcosa che si muove dal punto di vista della base, cioè una parola sola di questo, il bollettino che è stato fatto, questo non c'è? Assolutamente, certo, sì, vabbè. Per la prima volta ci siamo messi insieme situazioni diverse che lavoravano sempre su questo terreno, e un'iniziativa molto importante è stata quella dell'8 marzo che forse impedirà che il consultorio... Ah, va bene, ok, allora... Poi parlerà Giovanna di questa cosa, ma diciamo che come ambulatorio popolare, come Usi Sanità, come Comitato di Fiera Salute Nord-Ovest, come Comitato di Fiera Salute di Rodi, Sesto San Giovanni, Panetteria Occupata, abbiamo messo in piedi la pubblicazione di questo bollettino che si occupa proprio di questi aspetti. Sappiamo che c'è anche al Grattosoglio un nuovo presidio territoriale che sappiamo, e posso dire che comunque molti medici di un certo tipo hanno fatto sì che di mantenere un contatto con i pazienti indipendentemente da quello che è la rendicontazione delle prestazioni che invece viene richiesta dalle direzioni, al punto che veniamo considerati quasi come se facessimo una medicina in nero. Però purtroppo è così, non abbiamo modo per vedere i malati direttamente, abbiamo dei contatti, e in questo anche il contatto a distanza come urgenza può avere un suo significato. E ripeto, c'è anche la struttura di alcuni ambulatori nati all'interno di strutture pubbliche, come l'ambulatorio per gli extracomunitari dell'ospedale San Paolo, dove ci sono anche molti giovani medici che hanno cominciato a dare il loro contributo. Quindi è vero che c'è qualcosa che si muove, Tommaso, però la scala la salita da fare, il muro che abbiamo davanti è enorme, perché molto è stato devastato e soprattutto non c'è nulla che torni indietro, perché ripeto, quando io faccio presente che sono costretto a contattare dei pazienti a distanza, mi dicono: vabbè, ma perché non utilizzi la telemedicina, così rendi conti e sono cose registrate, ci tornano soldi in cambio. Rendicontare significa dimezzare le mie prestazioni, io preferisco farne di più e essere efficace e non rendicontare. Non so, forse sono stato un po' troppo caotico, ma se qualcuno a fare delle domande. Vieni però, vieni qua. Io posso parlare di questo per coso che puoi stare qua già. No, che si sentono da fuori. Abbiamo parlato per sigle e intendo quando si è parlato di Uompia, Noa. Sono praticamente l'Uompia, per esempio, è la neuropsichiatria infantile, che da sempre c'è stata una rete territoriale che adesso sta scomparendo. E fino a pochi mesi fa c'erano fino a 2 anni di lista d'attesa per accedervi, e intanto stanno aumentando sempre di più i disagi neuropsichiatrici nei bambini, ma non trovano poi riscontro, non trovano risposta in nessuna maniera. E proprio negli ultimi tempi, che come comitato e come Usi Sanità e altre realtà non abbiamo fatto altro che fare presidi e informare e denunciare la chiusura di tutte queste strutture territoriali, fra le per esempio per quanto riguarda l'amministrazione ospedaliera di questo territorio, che sono le zone 5, 6 e 7, e gli ospedali San Paolo e San Carlo, fino adesso sono state portate dentro l'ospedale. Una neuropsichiatria infantile è stata già portata in una sede adiacente all'ospedale San Paolo. 2 altre neuropsichiatrie, per la quale di recente abbiamo fatto appunto dei presidi, le stanno portando dentro l'ospedale San Carlo. E per finire, l'8 marzo abbiamo fatto questo presidio perché vogliono portare dentro l'ospedale il consultorio di via Monreale, perché dicono devono ristrutturare questa sede, che è una sede nuova, che è sorta nel 2006 con finanziamenti governativi, nello specifico per i consultori nella città di Milano. Bene, questo consultorio, che è quello nuovo, è quello bello, eccetera, eccetera, ci vogliono fare una casa di comunità, e intanto spostano La metà dei servizi che ci sono dentro li spostano in altre sedi, non si sa dove. Il consultorio dicono che lo riporteranno sul territorio, ma noi ci fidiamo poco. E comunque il consultorio, che sarebbe poi l'ambulatorio del medico, del ginecologo, dell'ostetrica e lo spazio allattamento, rimarrebbero scollegati da tutti gli altri servizi che avevano dentro e con cui lavoravano in equipe. Per cui è uno smembramento dei servizi, non esiste più niente. Nel tempo abbiamo perso tutto. E mi spiace dirlo, ma negli ultimi anni, perché il Comitato di Difesa Sanità Pubblica di questo territorio si muove sul territorio da parecchi anni e che sono alla fine quattro pochissimi compagni pensionati, che io dico per fortuna che ci sono i pensionati, perché i giovani non si vedono più manco da lontano, che è una roba allucinante, perché non sappiamo più come portarle avanti tutte queste istanze, come denunciarle, come farlo sapere, perché poi la cosa più difficile è informare oggi. Per cui nessuno sa niente della controriforma sanitaria che è stata appena approvata da poco, che è una roba peggiorativa della riforma che doveva essere riformata, come dire. Per cui gli avevano detto, il governo gli aveva detto sulla legge Maroni, la legge 23, che era sperimentale, doveva durare 5 anni, la fine della sperimentazione era la fine del 2020, e allora a quel punto, visto quello che è successo col Covid, il governo gli ha detto no, dovete rivedere qualcosa in Lombardia, dovete rivedere qualcosa e dovete rivedere il territorio e la medicina territoriale, e loro adesso con la controriforma e con i soldi, con i finanziamenti del PNRR, cosa stanno facendo? Invece di aumentare i presidi territoriali, stanno mettendo queste case di comunità negli edifici già esistenti come medicina territoriale, smembrandole, perché non gliene frega niente di fare qualcosa. A loro basta dimostrare che nella carta hanno fatto ste cazzo di case di comunità. Per cui non gli frega che ci sia una medicina territoriale funzionante. Quando lui prima parlava di prevenzione, la prevenzione non esiste più. Noi quattro sfigati di operatori che eravamo rimasti, sempre di meno, perché intanto parlo del territorio, la gente andava in pensione ma non è stata mai sostituita, eravamo noi che cercavamo di far fronte alla mole di lavoro che c'era, ma non potevamo fare niente, perché se non hai manco la segretaria che può prendere la telefonata per l'appuntamento, l'utenza non può neanche accedere, non trova risposte, e per cui è stato tutto così. Adesso la 833 di cui parliamo, la riforma sanitaria del 78, quella della medicina universalistica eccetera eccetera, ormai l'abbiamo persa, perché noi non abbiamo fatto manco niente, perché con quattro pensionati in croce che fanno le lotte non riusciamo a fare niente. Cioè io non so veramente, poi magari i pensionati sono quelli più motivati perché cominciano ad avere guai, capiscono qual è la difficoltà ad accedere al sistema sanitario nazionale e magari sono quelli che si muovono vedendo cosa si è perso nel tempo, però i giovani non esistono. E per esempio nella medicina territoriale un tempo nei consultori, io ci sono da poco, ci sono da 3 anni, però il personale che c'era dentro mi raccontava quello che si faceva un tempo, cioè un tempo c'erano gli assistenti sanitari che andavano nelle scuole, che parlavano non solo di sessualità, parlavano di prevenzione delle malattie sessuali, parlavano di contraccezione, parlavano della 194. Adesso tutto questo non esiste più. Adesso tu vedi arrivare le giovani che arrivano magari in ospedale e gli dici, gli proponi, che ne so, come contraccezione l'anello vaginale, e questi ti guardano con degli occhi sbarrati e ti dicono cos'è sta roba e dove devo metterlo, perché non hanno minimamente idea del proprio corpo, che sono cose che noi abbiamo perso nel tempo, perché ognuno di noi dovrebbe andare a capire, come dire, a farsi un'idea di come muoversi, di come curarsi e di conoscersi soprattutto. Tutto quello che era stato costruito negli anni 70 ormai l'abbiamo perso, come dire, e nessuno si muove in questo senso. E niente, noi continuiamo a lanciare iniziative, non sappiamo più che fare, e l'8 marzo siamo riusciti a fare qualcosa di rivoluzionario proprio. Abbiamo fatto 5 minuti di occupazione della struttura, che mi viene da ridere, perché oltre a questo non riusciamo più a fare niente. Perché? Perché siamo pure in pochi. Per cui se non ci cominciamo noi stessi a riprenderci tutto quello che avevamo, o comunque a pretendere che la 833, che non è che è sparita, c'è ancora ed è ancora, come dire, in vigore, E allora facciamo, tiriamo fuori sta 833, però dovremmo essere veramente tutta la popolazione in piazza a farlo. Dovremmo cominciare a spegnere le TV, per esempio, per poterci confrontare un pochino meglio e capire un po' come siamo messi. Questo è un punto dolente su cui si casca sempre, è giusto, inevitabilmente. Vabbè, adesso apriamo i microfoni a tutti. Se qualcuno ha delle... Anche chi è collegato, vediamo chi c'è. Se c'è qualcuno su Mumble che vuole dire qualcosa... E se no ci facciamo un tè caldo, che anche quello è prevenzione. Di che là ci sono i libri. Non l'abbiamo mai neanche detto, sul tavolo in fondo ci sono i libri di cui stiamo, quei libri lì. Uno stacco. No, chiudiamo, dai. Che dici? Sì. Chiudi tu? Beh, intanto hai poco fa chiamato su Mumble, sappiate che mezz'ora fa c'era tanta gente su Mumble che si domandava ma come fai, ma adesso temo non ci siano più. E dunque vi ringraziamo sia in presenza che in remoto. Tutti i partecipanti al libro, alla Loco 19, che ricorda tu che cos'è Loco 19? Loco 19 è questa cosa qua, fra questo lo dico proprio velocissimo. Il 15 marzo del 2020 dovevamo fare un incontro Loco sarebbe le lunghe. Lost e le lunghe ombre della scienza e della tecnica. Avevamo questo calendario di iniziative di critica della scienza e dovevamo farne uno il 15 marzo 2020. Siamo stati impediti perché non si poteva praticamente neanche uscire di casa. Allora, grazie a anima un po' di smanettona, abbiamo organizzato degli altri incontri in streaming sostanzialmente, in maniera un po' artigianale, però devo dire efficace, che restassero attorno al tema della pandemia, e l'abbiamo chiamato radio in maniera un pochino pomposa, però ci divertiva pensarlo così. C'era il jingle, gli stacchetti, eccetera, e abbiamo attraversato alcune questioni. Alcune sono quelle presenti su questo tavolo o che sono state poi collegate da remoto, però abbiamo fatto anche dell'altro, perché lì appunto, come ricordavo all'inizio, ci sono state le rivolte carcerarie, ci sono stati gli scioperi nelle fabbriche, ci sono stati dei 25 aprile con dei piccoli sprazzi di cortei, ci sono state delle iniziative territoriali, dei tentativi di fare della resistenza, c'è stato delle iniziative di supporto psicologico, la distribuzione di cibo, insomma abbiamo cercato di coprire un pezzo di argomenti che uscivano poco e riuscivano a circolare poco e che invece forse a noi interessava che fossero anche messi in comunicazione tra loro e di cui restasse traccia. Abbiamo un pochino anche immaginato come fare la tecnica, ecco, ogni volta la tecnica si affinava un po', e anche questo è stato divertente. Questa è stata la Loco 19, è stato questo. Ringraziamo anche Stanley che in questo momento ha sistemato tutto questo enorme accrocchio tecnico che ci ha permesso di parlare con gente remota. Basta, quindi buona serata, buon proseguimento, buon tè. Ripeto, se c'è qualche situazione, gruppo, casa, eccetera, che vuole dei manifesti di quelli là, li può prendere, sono a disposizione sul tavolo in ricordo di Sant'Enotar Nicola, che ci ha lasciato il 22 marzo dell'anno scorso. Ciao ciao.